In the Piazza della Repubblica, there's a large obelisk. Sarah and Lorenzo are going to meet there tomorrow morning and then find somewhere for an aperitif. Nice way of working. Ma è domenica. Yes, it's Sunday. And this is the end of Unit 7. Un momento, c'è un dialogo. A dialogue? Where? Alla reception. Buonasera, signorina Jenkins. Buonasera. Vorrei la mia chiave, per favore, numero 37. Ecco la sua chiave. Come sta? Bene, ma sono molto stanca. E il signor Conti? Non è con lei? No, no, non è qui. Un uomo molto gentile, il signor Conti, vero? Sì. E anche bello, vero? Ma non lo so. Buonanotte. Buonanotte, signorina. E siamo alla fine dell'unità 7. If you had any problems in this unit, take the time to go back and review the relevant section as many times as you need to. And then when you feel confident with all the Italian you've learnt so far, go on to Unit 8. Arrivederci, a presto!